è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, numero di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2. Mandato d'arresto per il presidente del Sudan Bashir, colpevole di crimini di guerra per il tribunale dell'Aia, 300.000 i morti nel Darfur, critiche dal mondo arabo e dalla Russia. Stupro della Caffarella, tutto da rifare, vertice degli inquirenti, nessuna traccia di un terzo uomo. Sulla scarcerazione dei due rumeni deciderà il tribunale del riesame. Dalla Turchia le drammatiche, eccezionali immagini di una tragedia sfiorata. Un treno travolge un tir che a sua volta finisce su un passante, incredibilmente sopravvissuto, due i feriti. Chiesta la conferma della condanna a 9 anni per Vanna Marchi e la figlia per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, attesa per il verdetto della Cassazione. Da domani in Francia in vendita su internet compiti già fatti per gli studenti, insegnanti sul piede di guerra. A idearlo un ragazzo di 25 anni che dice è tutto legale. Qualche piccolo problema alla fine nella sigla del TG2, andiamo a sentire Studio Aperto. Vertice in procura tra magistrati e inquirenti sullo stupro della Caffarella. Al vaglio la prova del DNA che scagiona i due romeni, mentre viene smentita la pista del terzo uomo. Restano da sciogliere i dubbi sull'inchiesta che rischia di ripartire da zero. Un anno fa a Rossano Veneto uccise il marito ubriaco e violento a colpi di accetta. Il giudice l'ha assolta perché fu legittima difesa. Io e i miei figli abbiamo subito maltrattamenti di ogni tipo, dice la donna ai nostri microfoni. Ora posso ricominciare a vivere. Crimini contro l'umanità in Darfur, mandato di arresto per il presidente del Sudan Bashir. Lo ha spiccato il Tribunale Internazionale dell'Aia. Tra le accuse, omicidio, sterminio, tortura e stupro. Folla in piazza a sostegno del leader, l'Egitto chiede una riunione urgente dell'ONU. Povia si confessa a Studio Aperto, iniziato da ragazzo con qualche spinello, poi sono passato alla cocaina, mi ha salvato la musica. E ai giovani oggi il cantautore dice, attenti, non siete voi ad usare la droga, ma è lei ad usare voi. Bene, 18:39, 800 24 00 24, debutta dunque il nuovo sistema antipianisti, entrerà in vigore la prossima settimana, è stato sperimentato a Montecitorio, secondo me un'umiliazione incredibile per i nostri parlamentari, ma ne abbiamo già parlato ieri, da una cinquantina di giornalisti. Sentiamo. La seduta è aperta, prego gli onorevoli giornalisti di prendere posto. Vita dura per i pianisti, e non parliamo di chi suona il pianoforte, ma di quel vizietto dei parlamentari, non tutti per la verità, di votare anche per i loro colleghi assenti. Il presidente Fini ha detto basta e oggi eccezionalmente ha fatto aprire l'aula di Montecitorio ai giornalisti parlamentari che hanno collaudato il nuovo sistema di voto che si basa sulle impronte digitali, per cui occorrerà il dito del parlamentare per ogni singola votazione. Coloro che si rifiutano di consegnare le proprie impronte digitali potranno continuare a votare con il vecchio sistema. Quanto all'eventualità che taluni deputati non acconsentano alla rilevazione delle minuzie, che per essi sarà reso possibile continuare a votare col sistema attualmente in vigore, salva la necessità di rendere pubblico il nome dei deputati che intendono avvalersi di tale facoltà. È evidente anche qui che si tratta di un elementare dovere di trasparenza e per certi aspetti anche di una inequivocabile assunzione di responsabilità. Questo metodo è già in uso in altri paesi, dal Messico al Brasile e Albania. La prova della verità sarà martedì 10 marzo, quando l'Aula voterà con il nuovo sistema. Ma insomma, Messico, Brasile e Albania non sono grandissimi esempi. In ogni caso, pare che da 116, quanti erano ieri o nei giorni scorsi, gli obiettori siano scesi a 19. Solo 19 deputati dunque si rifiutano di utilizzare il nuovo sistema di votazione. Alla fine, come giustamente ha detto Fini, avremo i nomi di chi si è rifiutato, alcuni lo hanno già detto anche ai nostri microfoni. Cambiamo completamente argomento, vi do un altro spunto e bisogna recitare certamente il mea culpa da parte della stampa, tutta la stampa, anche noi che pure analizziamo quello che la stampa fa e diciamo anche la nostra sui fatti di cronaca. La vicenda dei romeni della Caffarella, avete sentito sia i titoli del TG2, il primo titolo e anche Studio Aperto sul summit degli inquirenti, potrebbero essere scarcerati addirittura nei prossimi giorni due romeni, perché tutti i test li scagionano, tutti i testi. In questo modo il TG5, il giorno dopo l'arresto dei due romeni, raccoglieva pareri tra gli abitanti della zona del parco della Caffarella, chiedendo cosa fareste a queste persone. Buongiorno, non si parla d'altro oggi, è la notizia del giorno. L'hanno presi finalmente, sì. Speriamo che li puniscono. Scusa. E che tutto vada bene. Secondo lei qual è una punizione giusta? Non lo so, è la cosa più forte che si può, in modo che si dà un esempio a tutti gli altri, che così non si fa più, è una cosa troppo terribile. Come dovrebbe pagare secondo lei? Pagare che se lo mettono dentro non lo devono mettere subito fuori. Una condanna giusta secondo lei qual è? Cosa dovrebbero fare adesso? Una condanna giusta, se glielo dico mi censurate. Ammazzarli. Come? Ammazzarli proprio. E da noi non c'è la pena di morte. Ma questi lo meriterebbero. La punizione giusta sarebbe di fare quella castrazione che dicono. Lei addirittura è favorevole alla castrazione chimica. Sì, quando escono dalla galera non danno più fastidio. Avete sentito la domanda, il filo conduttore di questo servizio del TG5, ma abbiamo preso il TG5 come esempio, ci sono anche altri organi di stampa, era: secondo lei qual è la punizione giusta? E naturalmente pena di morte, castrazione, buttare le chiavi, tutto quello che avete sentito è altro che non vi abbiamo fatto ascoltare, per carità di patria. 800 24 00 24. Giudicate voi quello che è accaduto questa mattina a Mattino 24 tra il conduttore Alessandro Milan e il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, il quale evidentemente vuole che si facciano domande, non dico gradite, ma insomma le domande che vuole lui. Non si può nemmeno interrompere un discorso, come a un certo punto ha fatto il conduttore. Non è la prima volta che diciamo Brunetta manca un po' di creanza, di buona educazione. Sentite. Lanciare messaggi, 400.000 posti di lavoro a rischio, quando tutti sanno che non è vero, è semplicemente ignobile, irresponsabile. Lei ha detto da lunedì ci sarà un monitoraggio. Scusi, lei mi ha fatto una domanda, sì. Io dovrei anche dare una risposta. La dia. Sì, ma non mi dica la dia con questo tono. Ministro, ho detto la dia, le stavo dicendo da lunedì il governo ha lanciato un monitoraggio. Mi scusi. Sì. Lei mi ha fatto una domanda. Risponda. Ecco, se mi dice risponda in questa maniera, la nostra conversazione può anche chiudersi. Ora, naturalmente qui non c'è la difesa di un collega o la difesa di un giornalista o un giornalista. Secondo me ci sono delle regole elementari che in una discussione, peraltro pacata, si devono tenere da parte di chi intervista e da parte di chi viene intervistato. A un certo punto Brunetta dice: vabbè, adesso ricominciamo tutto da capo, mi rifaccia la domanda, si fa come dico io. Ministro, allora, ricominciamo da capo. È una maniera tranquilla, le ho detto risponda alla domanda, non c'è nessuna maniera. Ricominciamo da capo. Sì. Allora, mi rifaccia la domanda e io le ridò la risposta. Ministro, la domanda è sempre quella. Lei si è adombrato per i numeri della CGIL. Ci ha detto, bene, 18:45. Questo è quello che è accaduto tra il ministro Brunetta e un nostro giornalista che conoscete bene, Alessandro Milan. È con noi Rita Bernardini, deputato radicale del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, sicuramente voi ricordate l'onorevole Bernardini, qualcuno voleva crocifiggerla, martirizzarla per il fatto di essere andata a trovare i due romeni, credo che fossero due o tre, adesso non ricordo, un gruppo di romeni, esatto, sei romeni, per i fatti di Guidonia, i presunti stupratori di Guidonia e i loro colleghi, amici, collaboratori di quella vicenda. Naturalmente ancora le indagini sono in corso e si deve mettere in moto tutto il meccanismo giudiziario. Avuto insulti, insomma la storia che sapete perché l'abbiamo raccontata. E ha parlato a proposito della vicenda dei romeni della Caffarella di un nuovo caso Giro Limoni. Che significa? Giro Limoni, forse i giovani, i più giovani non sanno chi è, però è stato un caso veramente incredibile degli anni del fascismo, una persona che fu accusata di aver stuprato e ucciso delle bambine. e naturalmente il mostro, questo mostro fu sbattuto in prima pagina, ma quando si scoprì che era totalmente innocente ebbe solo qualche trafiletto sui giornali, per cui nella mente degli italiani e soprattutto dei romani Girolimoni tuttora oggi, è vero, continua ad essere sinonimo di stupratore, violentatore di bambine. Cosa si è messo in moto per quello che riguarda i due romeni? Qui parliamo soprattutto di un meccanismo, perché la giustizia sembra invece funzionare, a parte forse qualche scivolata nel scivolone che poi bisognerà verificare nelle indagini, certo, iniziali, anche nel modo di comunicare da parte della polizia, che aveva dato per assodata evidentemente la colpevolezza di questi due romeni. Quello che non ha funzionato sicuramente è l'informazione. Prima abbiamo mandato in onda, onorevole Bernardini, un pezzo di un servizio del TG5 in cui l'intervistatore è andato dagli abitanti del parco della Caffarella, di quel quartiere, a chiedere: ma voi che cosa fareste a quelle persone colpevoli dello stupro? Evidentemente, insomma, tutto era dato per scontato, per certo, per acquisito. Addirittura si è andati oltre a chiedere che cosa avrebbero fatto i cittadini a quelle persone, con i risultati che lei può immaginare. Ma guardi, purtroppo in questi giorni abbiamo letto cose incredibili sui giornali e anche oggi. Io sinceramente sono rimasta colpita, e questa è una cosa che dico a Radio 24, non l'ho detta in precedenza, perché ci ho riflettuto sopra. Mi pare che qualcuno abbia scritto che a causa, per un cromosoma che estratto dal DNA, il cromosoma Y, è sicuro che gli stupratori siano appartenenti alla comunità romena. Sì, no, c'era sui giornali. Io questa cosa francamente non l'ho capita. Neanch'io. Cioè, come se fosse, se si possa da un cromosoma essere sicuri che ricavare un'etnia. Adesso io non faccio una critica a questo tipo di osservazione, davvero non la capisco. È possibile? Se lo domanda anche lei. Ma io, guardi, ho letto qualcosa qua e là e mi pare che anche autorevoli scienziati dicano che questo non sia possibile. Però comunque, al di là di questo, quello che voglio dire... Ci vorrebbe una critica da parte di alcuni direttori di telegiornali o di giornali, sicuramente, per il modo in cui la vicenda è stata presentata, cosa che fino adesso non si è vista comunque. Certo, io mi sono permessa di criticare molto, e anzi quando un po' tutti sputavano e si scagliavano addosso ai romeni, mi sono permessa di fare un'iniziativa in positivo, che però ha avuto poca eco sui mezzi di informazione, e cioè quella di lottare per il diritto di voto dei cittadini comunitari, di cui 600.000 sono romeni. Perché nessuno lo sa, ma possono votare alle elezioni europee, sì, certo, solo che si devono registrare entro il 9 marzo che sta per arrivare. Ecco, perché secondo me bisogna stare molto attenti, è facile soffiare sul fuoco e instillare anche sentimenti di tipo razzista. Io per esempio capisco persino i cittadini che mi hanno insultata quando io ho fatto quella visita. Perché? Perché bastava aprire un telegiornale. Cioè, la colpa non è di quelli che l'hanno insultata, certo, questo è corretto. È evidente che si sono trovati come se io fossi andata a portare la solidarietà. No, io sono andata nel carcere di Rebibbia perché mi erano arrivate segnalazioni di violenza, l'abbiamo spiegato, certo. Infatti, guardi, le dico un'altra cosa. Oggi mi hanno chiamato dei giornalisti, di autorevoli giornali, che mi hanno chiesto: perché non facciamo un colpo e andiamo a trovare questi detenuti a Regina Coeli? Sì. E io gli ho risposto: non mi sono arrivate segnalazioni di violenze. Cioè, la visita ispettiva di un deputato è per verificare le condizioni di detenzione. Certo, ma questo è chiaro. Guardi, sul Corriere della Sera di oggi, il cromosoma Y, dal DNA è stato estratto il cromosoma Y che ha evidenziato un profilo genetico tipico dell'etnia romena. Gli aggressori dovrebbero dunque essere di romeni, ma non sarebbero i due arrestati. Su questo effettivamente ci vorrebbe maggiore chiarezza. La ringrazio, onorevole Bernardini. Grazie. Buona serata. 18:53, Rado, provincia di Treviso. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Sono come al solito un vostro ascoltatore nella strada di ritorno a casa. Sì. Volevo parlare in riferimento all'intervento che ha fatto questa mattina il ministro Brunetta. Sì. Mi sono un po' risentito, ho fatto fatica ad ascoltare l'intervista per un semplice fatto. Se questo è il modo di porsi al contatto del cittadino, dei nostri governanti, non mi va bene. Se dobbiamo essere sudditi non mi sta bene. Guardi che in questo caso, sì, ma in questo caso non è questione di rapporti tra Brunetta e i cittadini, in questo caso è il rapporto che c'è tra un intervistatore e un intervistato, dei rapporti di normale correttezza che secondo me sono stati traditi da Brunetta, non c'entra niente il rapporto di Brunetta con gli elettori. Certo, poi siccome la trasmissione si rivolge al pubblico, ognuno poi si fa un'idea del carattere di Brunetta. Non è la prima volta, però Rado, bisogna dire, altre volte io stesso sono incappato nell'effetto Brunetta, e anche Mentana di recente, io anni fa, Mentana recentemente, poi lo manderemo in onda dopo il GR delle 19. La ringrazio. Paolo da Milano. Paolo. Oh, buonasera dottore. Dica. Volevo parlare un momentino sulla faccenda delle donne che vanno in pensione a 65 anni. Le devo dire che secondo me la storia non insegna niente, volevo sapere se anche lei era d'accordo. In che senso? Perché? Perché io ho 72 anni e circa 40 anni fa, gli insegnanti potevano andare in pensione a 13 anni e non so quanti mesi, no? E adesso arriviamo al limite forse giusto, no? E allora nessun sindacato, nessun partito si oppose dicendo ma cosa state facendo, ma è una cosa inimmaginabile andare in pensione dopo appena 13 anni e pochi mesi di pensione, e così è esploso il debito pubblico e così è successo tutto quello che è successo. Ora sia gli stessi, sempre gli stessi sindacati e forse gli stessi partiti vogliono intervenire, no non va bene i 65 anni con tutte le loro argomentazioni. Guardi, non solo i sindacati, perché la cosa più incredibile di queste ore è che non sembra esserci una linea del governo. Forse ce la racconterà domani mattina Sacconi, che sarà ospite di Ferrara. Lo stesso Sacconi che oggi ha detto ma insomma non c'è nessuna bozza, in realtà non è il caso di intervenire. Dunque non è che solo i sindacati sono contrari, anche all'interno del governo qualcuno pensa che non bisogna intervenire sulle pensioni. Si fanno calcoli anche dal punto di vista dell'effetto elettorale che possono avere certe decisioni. Guardi, fosse per me si aumenterebbe l'età pensionabile da subito a tutti, uomini, donne, per metterla in linea con i livelli europei. La questione delle donne, poi è assurdo parlare di bisogna prima pensare al fatto che ci sono gli stipendi più bassi, che sono discriminati in altri campi, insomma il solito benaltrismo che si fa in questi casi. Marcello da Bari, grazie Paolo. Marcello, buonasera. Buonasera, vorrei parlare un attimo dei cosiddetti pianisti, ma non limitatamente solamente al discorso del pianoforte, così per dire. Praticamente quello che mi colpisce tantissimo è, come diceva giustamente lei nella trasmissione di ieri, spendere tutti quei soldi per un aggeggio che controlla il loro modo di votare è veramente assurdo, ma io non è quello che contesto. E vorrei fare il paragone con quello che accade in un'azienda privata dove lavorano un po' la maggior parte delle persone e la, per virgolette, casta dei politici. Praticamente in azienda, se una serie di persone cercano di comportarsi male, che so, fanno tantissimi caffè, per esempio, vengono ripresi, e le posso garantire che non c'è possibilità di trovare no, io mi rifiuto, no, ma mi appello a questo o quell'altro. Si viene riportati in riga giustamente e basta. Vabbè, adesso invece, con qualche forzatura, con qualche mal di pancia, mi sembra che manchino all'appello solamente 16 deputati per mettere queste famose impronte digitali. Per cui ci siamo quasi, Marcello, non si disperi più di tanto. Titoli del TG3. Crimini contro l'umanità in Darfur, dalla Corte dell'Aia mandato di cattura per il presidente del Sudan, pericolo di rappresaglie sui funzionari ONU. Donne in pensione a 65 anni, no di CGIL, CISL, Sacconi frena, ancora nessuna decisione, Franceschini, non è serio creare confusione, previsioni nere di Banca Italia. Il PIL calerà del 2,6%, febbraio eccezionale ricorso alla cassa integrazione. Lo stupro alla Caffarella, il DNA scagiona i due romeni arrestati, il giallo della pista del terzo uomo, Alemanno no a innocenti in galera. In commissione sanità emendamenti al testamento biologico, il PDL è un'apertura, il PD testo pessimo, Marino al TG3, ci allontaniamo dall'Europa. Ma i più pianisti, i deputati che votano anche per gli assenti, sperimentato a Montecitorio il nuovo sistema di voto con le impronte. Il mondo del calcio turbato dalle dichiarazioni di José Mourinho, la Federcalcio deferisce il tecnico dell'Inter e il commento di Oliviero Bea. Bene, allora, cosa sta accadendo? Perché gli inquirenti si sono riuniti per quello che riguarda lo stupro della Caffarella. Secondo la questura le accuse reggerebbero, questa è la notizia dell'ultima ora, rispetto a quello che era stato detto nei giorni scorsi. Ripeto, secondo la questura le accuse reggerebbero. Tra l'altro, PM Polizia, leggo adesso un'agenzia appena uscita, PM Polizia Raz, che è il cosiddetto pugile, uno dei due romeni, quello pelato, diciamo, riconosciuto da tutti e due i fidanzatini. Dunque, secondo la questura, le accuse reggerebbero. Sky TG24. Vertice governo parti sociali in agenda crisi e pensioni. Sacconi frena, nessuna bozza. Banca Italia taglia le stime del PIL, -2,6%, nuova gelata dei consumi a gennaio. Darfur, l'AIA chiede l'arresto del presidente Bashir, cade l'accusa di genocidio. Gordon Brown a Washington, la crisi è un uragano, ma no al protezionismo. Prove di dialogo sul testamento biologico, la maggioranza propone modifiche. Beppino Englaro avvia l'azione civile di risarcimento per diffamazione e calunnia. Stupro della Caffarella, il terzo uomo non c'è, non cambia l'impianto dell'accusa. Lufthansa sfida l'Italia ad aprire voli da Malpensa per Roma, Napoli e Bari. Camera, Dio pianisti, Fini presenta il nuovo sistema di voto elettronico. Veleni nel calcio, deferiti Mourinho, Balotelli e De Rossi. Stasera Inter-Sampdoria. Eccoci qui alle 19:19, 800-24-0024 per chiamarci in diretta. Ieri sera a un certo punto, sonnecchiando verso 00:30, 00:40, sono incappato con lo zapping televisivo nella puntata di Porta a Porta, che era dedicata ai matrimoni misti, ai problemi dei matrimoni misti dopo i recenti fatti di cronaca con un marocchino che ha sgozzato la moglie italiana, il figlio di 2 anni, come sapete. A un certo punto c'è stata una sparata eccezionale che mi ha fatto così risollevare dalla poltrona, da parte di Alessandra Mussolini, un vero e proprio spettacolo. Alessandra Mussolini che... dopo aver naturalmente detto che i matrimoni misti portano un sacco di problemi e dunque il caso di pensarci non una ma mille volte, ha ricordato un fatto accaduto recentemente in Calabria, di cui non conoscevo assolutamente i termini della questione, con un gruppo di russe, così dice, sentirete, è assolutamente strepitoso, un gruppo di russe calate in Romania sostanzialmente per rubare i soldi a vecchietti, ad abitanti di questo paese, calate in Calabria naturalmente, non in Romania, un gruppo di russe per turlupinare, per raggirare un gruppo di abitanti di questo paese della Calabria, che bisognerebbe anche scoprire a questo punto qual è. Sentiamo. A una come la Mussolini ci vorrebbe un no, perché voi mi fate ridere, all'inizio avete detto no. I matrimoni anche con le persone, con le ragazze dell'est, ne parlavamo prima, c'è stato un intero paese vicino Reggio Calabria, hanno fatto razzie, le russe sono arrivate, certe stanghe hanno preso nonni, zii, mariti, fratelli, non hanno lasciato più nessuno, distrutte. Sì, onorevole, sono distrutte. Loro, Perché? Per avere eredità. Livia, non è che sono tutte tutte integrazioni, eredità. Ma stiamo parlando di maschi italiani. Donne, eredità, pensioni. Erano stravolte. Tu che difendi sempre le donne, a volte loro ne approfittano anche. È che non lo so. Non allora, sono state nominate da Viagra e dalle russe. Il disagio psichico. Il Viagra è una tragedia. Avete sentito la Mussolini che prima ha ricordato, vorrei capire a questo punto se esiste questo paese della Calabria dove a un certo punto sono calate le russe tipo predatrici a rubare i soldi ai poveri vecchietti rivitalizzati dal Viagra, perché dice la Mussolini la vera tragedia per noi donne è il Viagra, e poi insiste, sentitela. Voi ci avevate una fine biologica, l'avete continuata con Viagra. Onorevole Mussolini? Sì. Poi sempre con gli uomini, onorevole una Mussolini? Cosa per le donne. La pillola la prendiamo noi. Vada lì, vada. Il Viagra ve lo prendete. Vada a condurre. Cioè, ma quanto è autoritario. Il Viagra vi ha aumentato, perché uno trovava pace a una certa età, invece col Viagra neanche più. E bisogna rassegnarsi anche a questo, onorevole Mussolini. Ecco, avevate una fine biologica con il Viagra, l'avete interrotta questa fine biologica. Non si capisce perché dia così fastidio l'uso di pilloline alla Mussolini. 800 24 00 24 dalle russe della Calabria citate dalla Mussolini, e faccio qui un appello ai calabresi che ci stanno ascoltando. Io ho cercato oggi su internet, chiamando colleghi locali, questo paesino dove sarebbero calate le russe, non l'ho trovato, aiutatemi voi. E passiamo dalle russe ai romeni per una cosa molto più seria, naturalmente, che riguarda la vicenda della Caffarella. Ho ricordato prima, ma voglio rimandarlo in onda perché è significativo, il modo in cui il TG5, credo di qualche giorno fa, subito dopo, il giorno dopo lo stupro della Caffarella, anzi il giorno dopo l'arresto dei due romeni, è andato in strada a chiedere agli abitanti della Caffarella: ma insomma voi, se fosse per voi, cosa fareste di queste persone arrestate? Cosa ne fareste? Buongiorno, non si parla d'altro oggi, è la notizia del giorno. L'hanno presi finalmente, speriamo che li puniscono e che tutto vada bene. Secondo lei qual è una punizione giusta? Non lo so, è la cosa più forte che si può, in modo che si dà un esempio a tutti gli altri, che così non si fa più, è una cosa troppo terribile. Come dovrebbe pagare secondo lei? Pagare che se lo mettono dentro non lo devono mettere subito fuori. Una condanna giusta secondo lei qual è? Cosa dovrebbero fare adesso? La condanna è giusta, se glielo dico mi censurate. Ammazzarli. Come? Ammazzarli proprio. Beh, da noi non c'è la pena di morte. Ma questi lo meriterebbero. La punizione giusta sarebbe di fare quella castrazione che dicono. Lei addirittura è favorevole alla castrazione chimica. Sì, quando escono dalla galera non danno più fastidio. E via con la castrazione chimica. 800 24 00 24, la buona creanza, si fa per dire, del ministro Brunetta questa mattina con Alessandro Milan a Mattino 24. L'argomento era: è vero o no quello che dice la CGIL, 400.000 precari che rischiano il posto di lavoro? Sentite com'è andata a finire. Lanciare messaggi, 400.000 posti di lavoro a rischio, quando tutti sanno che non è vero, è semplicemente ignobile, irresponsabile. Lei ha detto da lunedì ci sarà un monitoraggio. Se lei mi ha fatto una domanda, sì. Io dovrei anche dare una risposta. La dia. Sì, ma non mi dica la dia con questo tono. Ministro, ho detto la dia, le stavo dicendo a lunedì il governo ha lanciato un monitoraggio. Mi scusi, sì. Lei mi ha fatto una domanda. Risponda. Ecco, se mi dice risponda in questa maniera la nostra conversazione può anche chiudersi. Non è la prima volta, per esempio qualche settimana fa c'è stato un caso simile, ripeto non è la prima volta per quello che riguarda il ministro Brunetta. Ospite di Matrix, allora condotto da Enrico Mentana, Brunetta ebbe questo scontro con Mentana, sentite. Alberto Alesina, come ha visto, lei già una volta fu ospite di Matrix e vide un po' di pollaio italiano, mi ricordo era una puntata in cui ancora c'erano i tempi... Ah, mi scusi, sa, è pollaio questo? Quello. Ministro... No, mi pare che cominciamo male però. Ministro, mi pare che cominciamo male. Ministro, vuole qualcosa? Vuole... No, lei vuole qualcosa. Perché paragona un pollaio? Ministro che sta parlando e viene contestato mentre c'è un'intervistina per le strade di Napoli può anche passare per pollaio o no? No, io sono una persona seria. Ma non è... Scusi. Scusi. Ho detto che scusi, lei è un pollo. Lei dice pollaio quello. Mi rifiuto di chiamarlo pollaio. Mi sento offeso di chiamarlo pollaio. Ministro, adesso... Mi sento offeso. Abbiamo iniziato con uno spirito non consensuale. Vabbè, ma questo non è un problema. Mi sento offeso che lei abbia definito pollaio quella cosa lì. Ma io stavo parlando di un'altra puntata a cui ha partecipato. Ho capito, lei ha detto il pollaio. Ministro. E Mentana. Come va la lotta ai fannulloni? Mentana, come va la trasmissione? La trasmissione va benissimo. Anche la lotta ai fannulloni, grazie. Sono contento per lei. Anche la lotta ai fannulloni, grazie. Renato Brunetta e i conduttori di trasmissioni televisive, radiofoniche, eccetera, eccetera. 1926 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, come sapete. Fra poco prenderemo tutte le vostre telefonate. C'è, al di là del fatto che naturalmente Maurizio Crozza rimane un comico meraviglioso, eccezionale, c'è nei confronti della questione del nucleare, come della questione dell'aumento dell'età pensionabile in generale, un riflesso condizionato nel dire no, non si può fare da noi. Ebbene, anche Crozza, insistendo su questa cosa che il nucleare è impossibile farlo in Italia, è vittima, secondo me, naturalmente poi le opinioni possono essere le più varie, è vittima di questa sindrome. Ci sono cose per cui noi italiani non siamo portati, come il nucleare, no? il nucleare, io l'ho già detto qua tante volte, non facciamolo il nucleare, vi prego, non facciamolo. Berlusconi, la prego, presidente. Ha visto che mi sono messo anche la cravatta, la giacca, il paese va a destra, io mi sto adeguando, no? Cerco di... La prego. Non riusciamo a far funzionare il catasto, figuratevi il nucleare. La settimana scorsa l'ufficio del catasto di Milano ha convocato un evasore morto da 38 anni. Va bene far uscire il sommerso, addirittura il catasto di Milano chiedeva di pagare a gente nata nel 1800. Non facciamolo nucleare, non siamo il paese adatto, lasciamolo fare a chi lo sa fare. E se poi metti con la rotazione dei dipendenti pubblici nella centrale nucleare finiscono a lavorare quelli del catasto? Che cazzo succede? Si rompe un tubo e chiamano Enrico Fermi. Vi prego. Non fa... Vabbè, naturalmente, ripeto, Cross è un comico, però è un tipico tic all'italiano, quello di pensare che ci sono delle cose troppo grandi per noi, che noi non ci possiamo permettere perché non siamo capaci. E secondo me non è una cosa positiva. Diversi ascoltatori mi segnalano cose interessanti. È successo anche in provincia di Torino con le rumene, esattamente come nel paese della Calabria, però questo paese della Calabria ci resta ancora sconosciuto. Ancora un altro ascoltatore, non succede solo in Calabria, ma in molti paesi rurali del centro-sud. Ancora sulla vicenda citata dalla Mussolini, un ascoltatore che si professa collega, caro collega, dunque deve essere un collega giornalista, non so se la Mussolini faccia confusione territoriale, ma un episodio del genere accadde a Trento la Ducenta, provincia di Caserta. Dalla storiella fu tratto anche un film dal titolo 23 del trio napoletano Ditelo Voi, con la partecipazione di Bruno Pizzul. Ma erano bulgare o ucraine? Dario, che ringrazio moltissimo. Altri che invece dicono, beh, questa sera non la mandate la canzoncina Ufo Robot associata a Brunetta. Naturalmente non era il caso. E poi essere d'accordo con quello che dice Brunetto, con quello che fa Brunetta, non significa non criticare alcuni atteggiamenti di Brunetta. Non bisogna ragionare troppo per schemi, ma facciamo risentire assolutamente a questo punto, prima degli ascoltatori, di nuovo la Mussolini e il paese della Calabria, invaso dalle russe, secondo la Mussolini, che hanno depredato tutto. A una come la Mussolini ci vorrebbe no, perché voi mi fate ridere, all'inizio avete detto no. I matrimoni anche con le persone, con le ragazze dell'est, ne parlavamo prima, c'è stato un intero paese vicino Reggio Calabria, hanno fatto razzie, le russe sono arrivate, certe stanghe hanno preso nonni, zii, mariti, fratelli, non hanno lasciato più nessuno, distrutte. Sì, onorevole, sono distrutte. Loro, Perché? Per avere eredità. Livia, non è che sono tutte tutte integrazioni. Eredità. Ma siamo dal di maschi italiani. Donne, eredità, pensioni. Erano stravolte. Se tu che difendi sempre le donne, a volte loro ne approfittano anche. È che non lo so. Siamo state nominate da Viagra e dalle russe. Il disagio psichico. Il Viagra è una tragedia. Siamo stati rovinati dal Viagra delle russe, è strepitoso, forse addirittura la battuta di questi primi mesi dell'anno. Alessandra Mussolini, ieri sera Porta a Porta. Giuseppe da Torino, buonasera. Buonasera, senta, io volevo solo precisare una cosa. In base all'identificazione del DNA dei due rumeni, sì, qualcuno, io da quello che ho sentito da lei sui giornali, ha scritto che è possibile identificare le persone in base ai cromosomi. Non è possibile. Non le persone, mi scusi, non le persone. La provenienza territoriale di queste persone. Certo, la provenienza territoriale. Io le do solo due precisazioni, poi le do anche dei riferimenti dove chiunque può cercare. Mi dica. Delucidazioni. I cromosomi sono uguali per tutte le razze. Nelle varie razze possono cambiare alcuni alleli, alcuni fattori, che quindi possono determinare determinate caratteristiche di una popolazione. Dunque dal DNA è possibile risalire, questa è la domanda, lei mi pare un tecnico, è possibile risalire al profilo genetico, per esempio, dell'etnia romena, è possibile? Su alcune popolazioni, ma non sui singoli. Ecco, per avere cioè che significa non sui singoli, mi scusi? Dal DNA di una persona, questa è la domanda, mi scusi non se insisto su questo. Persona. persona, dal DNA è possibile risalire su una etnia, su un tipo di popolazione. Vabbè, questo, di questo stiamo parlando, cioè dal DNA di una singola persona è possibile risalire a, che ne so, al fatto che possano essere romeni? A solo su mutazioni alleliche. Quindi no, beh, adesso non andiamo nel tecnico, Giuseppe. No, io le do il tecnico. Allora, io posso darle questa informazione, per chiunque voglia saperne, si legga il libro di Luca Cavalli Sforza, Geni, Popoli e Lingue, dove affronta il problema. Sì. Allora, dal DNA è possibile, ma non dai cromosomi. Ok, cioè, ho capito. Comunque, dal DNA è possibile arrivare a dire che quella persona è appartenente ad un gruppo, è romena. Su etnie. Ma non su singole persone, io volevo dare solo questa informazione. D'accordo, va bene, Giuseppe. Di sicuro chi vuole può cercare. Non ho capito quando lei dice non su singole persone. Cosa non su singole, non su una persona, su gruppi di persone. Cioè il DNA comune di singole persone, lei dice, dal DNA comune di singole persone, altrimenti non capisco. Qui hanno preso il DNA di una persona, mi scusi Giuseppe, hanno preso il DNA di una persona, giusto? E hanno detto che non sono romeni. No, hanno detto che sarebbero comunque romeni, non sono loro probabilmente. Non è possibile, no, bisognerebbe farlo su persone per dire che su quello stesso DNA c'è una mutazione genica. Sì. Quindi c'è su più persone quella mutazione, possono identificare una popolazione o un gruppo. Ho capito. La ringrazio. No, io volevo poi dire anche al ministro Brunetta, sì, forse dica. Devono essere molto meno protervi di quello che sono, perché mi sembrava la richiesta, la domanda era abbastanza appropriata, quindi devono scendere un pochino dal piedistallo. Ma no, io credo che non sia questione di domanda appropriata o meno, la questione è molto semplice, c'è stata una domanda, a un certo punto una risposta che è durata un minutino circa, a un certo punto un'altra domanda al termine di un ragionamento non è stato interrotto, Brunetta evidentemente se l'è presa, si è inalberato, voleva chiudere il ragionamento, non lo so, ma insomma c'è modo e modo per dire voglio finire un ragionamento, no? Certamente il modo utilizzato da Brunetta non è stato educato, diciamo così, per usare un eufemismo. La ringrazio. Per carità, non ha ucciso nessuno Brunetta, non bisogna nemmeno esagerare, però insomma avete sentito tutti e non è la prima volta. Mario da Torino, buonasera. Buonasera, ma io volevo tornare appunto un discorso un po' che ha piede oggi nella trasmissione sulla questione dei rumeni che immediatamente sarebbero stati messi alla forca, impiccati al primo albero che trovavano. Questo è il clima che sta viaggiando in Italia, grazie ai mezzi di informazione, grazie soprattutto alla politica di alcune destre, specialmente alcune destre che infiammano in qualche modo la mentalità dei cittadini italiani, così come ha detto la Bernardini prima. Ora, si è visto adesso che ci sono dei forti dubbi, che forse non sono loro, e che quindi bisogna tornare a rispettare la legge, bisogna tornare a rispettare in qualche modo i diritti delle persone che sono responsabili personalmente, non come etnia, di qualsiasi situazione. Però in Italia si è creato un clima di questo tipo, e io stesso, ripeto, dal panettiere, in giro sui pullman, sentivo sempre solo ragionamenti di questo tipo. Ora, bisogna smetterlo, bisogna cambiare il registro, bisogna in qualche modo invertire la tendenza. L'Italia è un paese che ha una bellissima Costituzione, rispetta i diritti delle persone e in qualche modo bisogna tornare a questo, e quindi anche i mezzi di informazione, soprattutto alcune televisioni, devono smettere di fare questo tipo di propaganda che secondo me è completamente negativa e, ripeto, ha sindrome di razzismo, perché questo è chiaro. Ma adesso non, il razzismo è una cosa diversa secondo me, Mario. Io capisco il suo ragionamento, però qui c'è stato un cortocircuito, a parte che, ripeto, la questura oggi dice che secondo le ultime rilevazioni, secondo le ultime indagini, le accuse reggono. Dunque, ancora siamo in una situazione di indivenire, non è una situazione che ha delle certezze. Secondo la questura ci sono delle certezze, o comunque ci sono delle prove sufficienti, le accuse reggono, secondo la difesa evidentemente no. Ci sono molti dubbi, quello che è sicuro è che la comunicazione che c'è stata dagli investigatori alla stampa nei giorni, il giorno dell'arresto di questi romeni, dava per certo la colpevolezza di questi romeni dopo la famosa confessione. Forse c'è stata un'eccessiva leggerezza da questo punto di vista. Qui la politica del governo però non c'entra nulla con il cortocircuito che si è innescato. Stefano da Roma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, sono Stefano. Senta, no, io volevo intervenire sulla storia del sovvenzionamenti alle banche. Ho sentito la trasmissione di Tremonti lì a Di Santoro, dove era ospite Tremonti e dove una settimana fa ormai. Una settimana fa, sì. Sì. E diciamo che l'indomani il mio amministratore, l'amministratore della società per cui lavoro, noi siamo la società che lavora per la RAI, facciamo le riprese televisive a Roma e in tutto il Lazio, insomma nel centro Italia. E praticamente è stato chiamato dal direttore e gli ha detto, dice, guardi, abbiamo ricevuto una comunicazione dalla direzione di Siena, del Monte Paschi di Siena, e ci ha praticamente interrotto, lei da oggi non ha più nessun fido per quanto riguarda l'anticipazione sulle fatture RAI. Premessa che dico, non sto lì a tediarla con i tecnicismi, però il credito nei confronti della RAI da parte nostra è un credito già consolidato, nel senso non è soggetto a contestazioni, sono già soldi praticamente che la RAI deve erogare, quindi per la banca è un rischio zero, praticamente è un'operazione a rischio zero. Quindi allora io, la conclusione qual è? Che noi in questo momento non abbiamo un euro nel conto corrente perché improvvisamente questa cosa ci è stata tolta dall'oggi al domani, non abbiamo la possibilità di pagare gli stipendi, stiamo seriamente pensando di o fermare l'attività o non so bene cosa fare. E io intravedo quattro possibili motivazioni. La motivazione ufficiale è quella che noi non rientriamo nei famosi parametri di Basilea 2, quindi noi dobbiamo avere dei palazzi, dobbiamo avere i capannoni, dobbiamo avere un non so quanto di capitale sociale. Insomma, sono 20 anni che lavoriamo onestamente, abbiamo sempre non siamo mai andati in rosso sul conto corrente. Improvvisamente, allora già domani, guarda caso, non rientrando nei parametri di Basilea 2, la nostra società ha i conti. Il suo problema è quello comune a molti piccoli imprenditori, non solo piccoli imprenditori, cioè quello di ottenere credito dalle banche, Stefano, è un problema molto serio naturalmente. E dunque lei su questo cosa ci vuole dire? Che il governo dovrebbe intervenire per sbloccare certe situazioni? Cosa dovrebbe fare? Secondo me bisognerebbe controllare che effettivamente questi soldi vadano alle piccole e medie imprese. Io ma i soldi alle banche, lei sta parlando di una cosa che sono i famosi Tremonti bond, no? Che è uno strumento, non è che sono soldi che esce alle banche, ci sono naturalmente certi vincoli, certe cose. Un'altra partita del governo è quello di dare una mano alle piccole e medie imprese, le banche se ne strafregano e ti mettono nel lastrico dall'oggi al domani adducendo pretesti, cioè soluzioni pretestuose. Dico la soluzione qual è? Cioè, o il Monte Paschi è un sacco vuoto, o il Monte Paschi ha informazioni tale per cui. Sì, ma adesso lasciamo perdere i casi singoli, Stefano. Io non lo conosco il suo caso. Parlo in generale, dico, sì. Le banche hanno delle informazioni per cui la RAI sembra che non sia più solvibile come cliente, oppure i soldi vanno a finire in un'altra cosa. Cioè, voglio dire, non vedo altre soluzioni. Va bene, Stefano, la ringrazio. Tutto il resto è insomma, alle 19.45 di questa sera io sono molto onorato di avere questi microfoni alla radio del Sole 24 Ore Franco Califano. Maestro, buonasera. Buonasera a voi tutti. Allora, ieri Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3, invitato dai giovani di Alleanza Nazionale, e oggi c'è un articolo molto dispettoso su Repubblica, lei l'avrà letto sicuramente. Proprio rispettosissimo, no, dispettoso, ho detto dispettosetto, sì. Insomma, no, i tempi che cambiano, vabbè. L'università, vabbè, ma insomma, la stampa ogni tanto fa queste cose. Dice che io sono stato una volta solo, invece è la terza volta che sto che vado all'università e devo andarci anche una quarta. Come mai la invitano all'università? Perché i giovani non hanno bisogno anche di sapere qualcos'altro oltre alle lezioni che fanno, oltre al diritto umano, sempre giurisprudenza, noi, oltre alle materie che studiano, hanno bisogno neanche di sapere qualcos'altro. Sulla vita magari, no? E certamente, naturalmente si rivolgono a chi di esperienza ne ha tanta. Io credo di aver vissuto 3 vite e di essere caduto 3 volte, di essere risalito 3 tante volte, soltanto con la forza che ho io, insomma, col mio coraggio. E senza piagnistei, senza lamentarmi e soprattutto senza padrini, senza sponsor, diciamo. Esattamente, senza sponsor e spinte, certo. Senta Califano, ma lei si spiega come mai, arrivato a 70 anni dopo una vita, sì, appunto, eccetera, viene i giovani hanno così tante domande da rivolgere, perché poi da quello che ho letto oggi in questo articolo di Repubblica, lei ha fatto anche dei monologhi, ma soprattutto c'erano le domande degli studenti. Cosa gli domandavano gli studenti? mi hanno domandato di tutto, mi hanno domandato, mi hanno fatto delle domande politiche, mi hanno fatto delle domande, mi hanno richiesto dei monologhi, perché insomma i monologhi, la signora che ha scritto, insomma, si è scandalizzata perché ho fatto i monologhi, ma anche quelle cose là io le ho, sono, le scrive prima di me l'illustrissimo poeta Belli. Ecco, infatti anche lui è additato come peccatore, insomma, no, storia di una potenza fisica al crepuscolo, ho letto. Cosa raccontate la storia di una potenza fisica al crepuscolo? Me lo dica anche a me, che cosa ha raccontato, che cosa significa storia di una potenza fisica al crepuscolo? Senti, no, è Disperati pensieri di un'impotenza, si chiama. È uno che fa un discorso con il suo organo genitale perché vede che ormai è arrivato. E allora in chiave molto ironica, naturalmente, come mia consuetudine, io racconto tutto quello che racconto nei monologhi in chiave ironica, sia ironica che drammatica, insomma, cerco di dire tutto quello che la gente vive e che mi vedo vivere intorno, appunto. Senta, i giovani vogliono da me sapere di donne e sesso o più di politica, oppure come la pensa lei? No, di donne e sesso. Beh, certo, immagino. Vogliono sapere di più di quello che sanno. Naturalmente sempre sui libri, sempre, nessuno gli parla mai di queste cose, loro, molti sono sprovveduti, molti vogliono sapere di più. E io avevo suggerito, anche un po' scherzosamente, però non tanto, una come si dice, un'aula dove possano esserci degli insegnanti di vita normale, insomma. Dopo che hanno studiato il diritto umano, questo e quell'altro, cioè questi ragazzi vogliono sapere qualcosa di più, cos'è la vita e cosa c'è. Senta, ma Califano, ma qui in realtà, da quello che ho letto, ma magari riportato male, volevano sapere soprattutto aneddoti, cioè quante donne ha avuto lei, insomma. Vabbè, quella è la solita storia, che io mi sono anche un po' scocciato di questa storia, di questo numero di donne, perché io purtroppo non sono ancora preso seriamente, questo è il problema. Non sono mai stato preso seriamente, io sono quello frivolo, quello superficiale, quello che fa ridere al limite. E invece? E invece no, sono tutt'altro, io sono invece un artista che ancora purtroppo non riesce a superare il personaggio, ma prima o poi ce la dovrò fare. Senta, perché le affibbiano ormai l'etichetta di uomo, di artista di destra? È vero, credo di no, ma poi queste etichette che significano? Appunto, dico, io non lo so. No, io diciamo che tutti quelli che non sono di sinistra sono ritenuti di destra, insomma, fa pensa. Il problema è loro, io non ho tessere, non ho nulla, però vengo definito di destra e quindi non lavoro quando ci sono i partiti comunisti, non mi fanno lavorare quando c'è la sinistra. Per 5 anni a Roma con Veltroni non ho mai lavorato una volta. E adesso con Alemanno? Ma con Alemanno mi ha dato intanto una piazza Navona il giorno del mio compleanno, perché gliel'ho chiesto io. E poi sto bene, insomma, non è che non mi boicottano più. C'ho naturalmente tutta la stampa ancora che è orientata a sinistra, che appena può mi colpisce con delle frasi, con delle cose. Con delle... Però lei il ruolo della vittima non lo fa, non mi faccia, no, il ruolo della vittima, perché non è il suo ruolo. Io me ne prego assolutamente, e anche perché io ho sempre fatto tutto da solo, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, né chiedo scuse perché non devo chiederne, e non lecco il sedere, insomma, così. No, ma lo può dire tranquillamente, non c'è problema. Qui non è un pranzo di gala, non è un. Capito. È come se fosse davanti agli studenti di Alleanza Nazionale. Senta, ma appunto perché la invitano gli studenti di AN, di Azione Giovane? Poi immagino che tra quegli studenti non ci siano solo loro, vengono tutti e se ne fregano se la cosa è organizzata dalla destra e dalla sinistra. Non è che ognuno... No, solo studenti, è quella che ha scritto quello che ha voluto, insomma. Cioè sono solo studenti dell'Università 3, come una volta c'erano solo studenti della Sapienza quando ho fatto la Sapienza, e come c'era una volta soltanto studenti dell'Università di Bari. Non è che c'era madre, il fratello, il nonno, alla cosa organizzata da Andy, no, organizzata dagli studenti di giurisprudenza di Roma 3. Io voglio sfatare due cose, magari alcuni ascoltatori che conoscono meglio Califano lo sanno, però la prima è che Califano, che è conosciuto per la sua romanità, per l'essere attaccato a una città, in realtà è nato a Tripoli, in Libia. Mia mamma ha iniziato a partorirmi su un aereo e poi siamo stati, siccome oggi si sarebbe potuto, avrebbe potuto partorirmi in aereo perché ci sono i mezzi, sì, una volta non si poteva, quindi hanno dovuto atterrare più vicino al scalo, e quello era Tripoli, sono andato là e poi siamo ripartiti. Ma lei con la Libia non ha nessun legame, no? No, ma io non sono mai stato a Tripoli, non c'è neanche bisogno di andarci perché non lo sento per niente, insomma. Dunque, no, manco le posso chiedere se abbiamo fatto bene o male a chiedere scusa alla Libia, per... No, non mi interessa. Non gliene frega niente, giustamente. Ho detto pure, no, pure detto che Saddam, io non, è un uomo del Gheddafi, sì. Gheddafi, voglio dire, del quale io non mi fido neanche tanto, no. Ma come si fa ad avere piena fiducia in Gheddafi? Molto, molto difficile. E poi lei è dell'Inter, insomma, cose di cui si parla molto in questi giorni. Ma Mourinho come lo vede lei? Questa come l'ho pagata qui a Roma? Ah, beh, lo so. Questa come continuo a pagarla qui a Roma. Ma Mourinho le piace? Anche perché sì, mi piace molto. Io in questo caso ultimo trovo sia stata fatta, sia stata un'esagerazione pazzesca. E veramente ha ragione Briatore quando dall'estero dice queste cose succedono soltanto in Italia, queste chiacchiere continue, no, le partite che durano una settimana, non ci sono le moviole, e certo in tutte le parti d'Europa non ci sono le moviole, da quando c'è la moviola ci sono i casini qui in Italia. Un califfo moderato, avete capito, non è, no, io, sì, poi non è neanche io sia un tifoso isterico, insomma. Io sono il primo a criticare quando inizia il gioco. Senta, la domanda migliore che le hanno fatto gli studenti dell'università qual è stata? Quella più carina, quella più simpatica? La domanda migliore? Non lo so, erano tante, oddio. Dovrei ripassare tutto. Quante donne ha avuto? Lei ha detto addirittura 1.600, 1.700, tipo Cassano. Ah, sì, ma un rapido conto, insomma, sono stato costretto a farlo perché tutti quanti mi fanno questa domanda. Ma non è quella la domanda più importante, anzi ci sono state tante altre. Tutte sono state belle domande intelligenti soprattutto, quindi questo mi fa molto piacere. Bene, la ringrazio molto. Ringrazio io lei e la vostra radio. Grazie. E i vostri ascoltatori. Grazie, 19.54, Franco Califano ai nostri microfoni, 800 24 00 24. Omar da Milano, Omar. Buonasera, Cruciale. Dica. Senta, io la chiamavo in merito all'intervento della Mussolini, che anch'io ho trovato fantastico. E devo dire che non succede solo in Calabria, c'è un paese ad esempio sul lago di Como che si chiama Lanzo d'Intervi, dove magari come si chiama? Lanzo d'Intervi. Lanzo, sì, ok. Lanzo d'Intervi, dove magari le persone del paese si sono dedicate un po' meno ai rapporti umani, hanno lavorato di più, accumulato chi un bar, chi un'altra attività, poi arrivati intorno ai 40-50 anni vanno a fare il viaggio a Cuba, il primo si sposa, porta in Italia la cubana racconta alle amiche, si organizza il viaggio e poi raffica tutti i divorzi e la solita legge italiana che trasforma l'uomo italiano in una successore dell'INPS. E queste separate, chi si è fatta al bar, chi si è fatta la casa, chi ha avuto la buona uscita per interrompere il matrimonio. E questo ha coinvolto molti abitanti di Lanzo d'Intelvi? No, molti, un certo quantitativo. Vabbè, d'accordo, comunque qui si parlava di una cosa diversa, della calata delle russe in Calabria, questo racconta Alessandra Mussolini ieri sera Porta a Porta. Omar. Sì, ma è sufficiente che arrivi una e poi racconta alle sue amiche come funziona in Italia. E ci vuole veramente poco per sì, poi ci vuole la collaborazione degli uomini, naturalmente. Questo è il dato dolente. Perché cioè, se magari non ha seguito i consigli del buon Califano, facendo delle esperienze prima, si è svegliato tardi e si è ritrovato. E qui entra in gioco la famosa pilloletta così aborrita da Alessandra Mussolini. La ringrazio, esatto. La ringrazio, Omar. Buona serata, Giampaolo da Milano. Buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Volevo fare due considerazioni. La prima è riguardo al ministro Brunetta, no? Io vedo che è una persona che ha un carattere sicuramente molto suscettibile, si nota, si vede, però volevo spezzare una lancia a suo favore. Vorrei che tutti ci mettessimo nei suoi panni con quello che sta affrontando, con quello che sta affrontando e che vuole fare, cioè risolvere una volta per tutti quella che è, diciamo, da molti considerato il lassismo degli di alcuni statali, ma di una parte abbastanza considerevole. Voglio dire, non deve essere facile alzarsi ogni mattina e cercare di mettere mano a una situazione cronicizzata oramai da decenni. Sì, ma questo, scusi, cosa c'entra con il modo di rispondere a un giornalista, no, con il modo di affrontare le interviste? Penso che sia, scusate, sbagliato, però voglio semplicemente dire che ha a che fare con un lavoro, con un tipo di lavoro, con un obiettivo che praticamente si sta rendendo antipatico. Sono 3 milioni e 500 mila gli statali in Italia, penso che dopo l'Unione Sovietica veniamo noi come numeri, no? Sì, no, Giampaolo, guardi, però siccome fare ministro, in particolare fare ministro della pubblica istruzione, non è che l'ordine è dottore, uno lo fa perché ha passione, perché vuole fare delle riforme e spesso... Io mi trovo d'accordo con le idee di Brunetta, per cui non è questo il punto. Io sono quasi sempre, abbiamo coniato anche la sigletta di Uforobò per Brunetta, perché comunque è un innovatore, un grande innovatore. Però quando uno si comporta male, poi si comporta male, a prescindere dal fatto che faccia delle riforme giuste o sbagliate. Giampaolo, la ringrazio. Abbiamo i titoli del TG5. Incontro governo, parti sociali sugli investimenti anticrisi, opere pubbliche e nuovi posti di lavoro, ammortizzatori sociali per i disoccupati, i sindacati no alle donne in pensione a 65 anni, Sacconi nulla di deciso. Una scheda, impronte digitali e una tastiera nascosta, ecco il nuovo sistema di voto della Camera, così assicura Fini sconfiggeremo i pianisti. Stupro della Caffarella, vertice di investigatori in procura dopo i dubbi sollevati dai test del DNA sui due romeni arrestati. Andiamo avanti, le accuse reggono. Operata a 12 anni di appendicite, ha scoperto 20 anni dopo una garza nell'addome. A causa della dimenticanza dei sanitari è stata colpita da una micidiale infezione. A Piacenza si allarga la zona ZTL e parallelamente si moltiplica il numero dei permessi per disabili. 4.000 su una popolazione di 100.000 abitanti. I truffatori clonavano gli originali. In uscita il terzo film di Ficarra e Picone, si intitola La Matassa, stavolta interpretato. Bene, questo era il TG5. Andiamo a sentire come riassumi i fatti del giorno il TG1. L'offensiva del narcotraffico insanguina il Messico, sfida il governo e allarma il presidente Obama, il TG1 nelle città proibite. Ordine d'arresto per il presidente sudanese al-Bashir, il tribunale dell'Aia lo accusa di crimini di guerra in Darfur. Vertice sulla crisi tra governo, sindacati e imprenditori, Letta, occupazione, imprese e coesione sociale le priorità. Pensioni, nodi CGL e CISL ai 65 anni anche per le donne, Sacconi, niente di deciso, presto il tavolo con le parti sociali. Vanna Marchi, la Cassazione conferma la condanna a 9 anni e mezzo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Secchione di gran moda, la Gran Bretagna impazzisce per la ragazza che ha fatto vincere ad Oxford la sfida tra università in onda sulla BBC. Simone ci chiama da Lodi. Simone, buonasera. Buonasera Cruciani, intanto volevo esprimere una solidarietà a Milan perché stamattina veramente il professor Brunetta si è comportato in maniera estremamente maleducata. Milan ha mantenuto un atteggiamento molto corretto e molto professionale. Visto che oggi si inaugurava poi la giornata del sistema antipianisti, se qualcuno non aveva lasciato le impronte digitali forse si poteva fare un salto in questura, visto che sono tutti inquisiti, magari lì si trovavano. Simone, lei ha detto una cosa, lei ha detto una cosa naturalmente apprezzabile secondo me, anche se poi si tratta naturalmente di opinioni, come la solidarietà ad una persona che non, peraltro non c'era nemmeno bisogno, ad una stupidaggine sesquipedale come questa qua delle firme in questura, che è una battuta naturalmente, è ovvio, era una provocazione, è una provocazione, ma una provocazione che non c'entra. Ma sì, ma non è questo, non la mettiamo su queste cose qua. Poi lei può fare tutte le provocazioni che vuole, Simone, per carità. Lei può pure dire, siccome sono tutti inquisiti, perché non vanno in questura direttamente, non so, a costituirsi, a fare cosa, Simone? No, giusto per magari avere le impronte digitali che qualche politico non vuole dare, quindi si aggiunge, diciamo, un altro elemento di valutazione rispetto all'atteggiamento dei nostri politici. Che male c'è a rilasciare le impronte digitali per farsi verificare? No, allora lì c'è un altro problema in più, etico, politico, di che genere? No, ma Simone, lei per questo a trovare lei ha perfettamente ragione, non c'è nessun motivo per non dare le impronte digitali, anche se È umiliante che si arrivi, non per chi deve dare le impronte digitali, è umiliante che si arrivi fino a questo punto, dover pagare, spendere decine di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro, anzi, per un sistema elettronico di controllo attraverso le impronte digitali, o sbaglio? Almeno, diciamo, assumere degli uscieri, mettere un usciere per ogni politico in maniera tale che così controllavamo direttamente, probabilmente costava anche meno. Bene, Simone, la ringrazio. Andiamo a sentire Giulio da Milano, buonasera. Buonasera, sempre riguardo all'immigrazione, livello di incidenza di alcune etnie straniere sul problema della criminalità, secondo me è oggettivo, cioè è indiscutibile che ci siano... Chi dice il contrario, Giulio? Abbiamo invitato l'altro giorno il professor Marzio Barbagli... No, infatti non mi riferisco a lei, mi riferisco a quel signore di Torino prima, che io poi non capisco questa difesa degli immigrati da parte di alcuni, dovrebbero più pensare forse agli italiani. Soprattutto in città come Torino, che sono molto provate, io la conosco Torino, dalla presenza degli immigrati e dal degrado. E mi domando perché ci si batta per queste persone che molto spesso non sono qua in Italia per far crescere il paese, ma... Ma guardi, mi scusi, lei però parla di immigrati in senso generico. Non è questione di etnie, Giulio, mi perdoni. Qui non possiamo arrivare a dire che l'etnia romena è fatta, come ripeto, ha detto un senatore, il senatore Stifone della Lega, nel DNA dei romeni c'è lo stupro, perché non è così, insomma. Giulio, abbia pazienza. Sì, bravissimo. Però io ti dico che rispetto... Ma io non ho detto che sono tutti bravissimi, mi scusi, i dati parlano chiaro dell'incidenza per quello che riguarda i romeni della criminalità in Italia, come primo... Infatti, quello io dicevo, rispetto ad altre etnie, tipo i filippini, per esempio, è difficile sentire dei reati commessi da loro. I romeni, come talvolta anche gli africani nel tempo, nell'ambito dello spaccio della droga, bisogna dirlo... Difendere a oltranza certe persone, secondo me, fa male agli italiani. Ma chi difende i delinquenti? Scusi, nessuno vuole difendere i delinquenti qui. No, ma infatti, ma non mi riferisco a lei. No, ma in generale nessuno difende i delinquenti. Poi abbiamo purtroppo delle norme che impediscono, per esempio, espulsioni certe. Negli anni c'è stato anche un certo buonismo, non c'è dubbio, ce lo raccontava l'altro giorno Marzio Barbagli, che è uno, diciamo, che viene da un mondo culturale, quello della sinistra, e che in questo mondo c'erano delle resistenze ad accettare il fatto che ci fosse un'incidenza molto forte del crimine per quello che riguarda gli extracomunitari o comunque gli stranieri. Giulio, la ringrazio, devo mandare in onda i titoli della 7, andiamo in onda. La Banca d'Italia aumenta dal 2 al 2,6% le stime sul calo del PIL, nuovo boom della cassa integrazione a febbraio, il governo fa marcia indietro sull'età pensionabile delle donne, vertice a Palazzo Chigi con i sindacati sugli ammortizzatori sociali. La legge sul testamento biologico, il PDL apre all'opposizione e annuncia via qualunque riferimento all'accanimento terapeutico e all'obbligo di sottoscrivere il documento davanti ad un notaio. Il PD teme cambiamenti di facciate e dice prima vediamo il testo. Per le stragi nel Darfur, la Procura internazionale dell'AIA ha spiccato un mandato di arresto nei confronti del presidente del Sudan, Omar al-Bashir, accusato dello sterminio di 300.000 persone. La Federcalcio deferisce Mourinho, ma anche Balotelli e De Rossi. La censura riguarda le polemiche. Eccoci alle 20.11, vediamo Brunetta, ospite a Sky TG 24. È che questa vasca, che è la ricchezza prodotta, deve confrontarsi però con il livello dei prezzi. Roba si compra con il reddito prodotto, che è la ricchezza prodotta. Il quanto dipende dal livello dei prezzi. Se nel 2008 il livello dei prezzi era il 3-3,5%, si poteva comprare con quella ricchezza. Lezioni di economia, mi sembra di capire. A conduttori di Sky TG24, evidentemente molto ricettivi a queste lezioni di economia, sono i due conduttori del telegiornale, naturalmente. Guido da Milano. Buonasera Guido. Luciani, complimenti per la battuta. Volevo fare un intervento a proposito del discorso rumeni, etnie, criminalità, eccetera, eccetera. Per prima cosa, credo sia giusto puntualizzare che l'etnia rom non coincide con la nazionalità rumena, perché esistono persone rom di nazionalità italiana come persone rom di nazionalità spagnola, quindi bisogna non fare confusione, perché è importante. Come seconda cosa credo che sia altrettanto importante distinguere, a prescindere dalla nazionalità e dall'etnia, fra persone che commettono reati, persone che sono fuori legge e persone che non li commettono. Vabbè, e questo mi pare, che, questo mi pare scontato. Prima, è fondamentale essere intransigenti o perlomeno far rispettare la legge a chi non la rispetta e senza additare nazioni o popoli di essere criminali o meno. E come ultima considerazione volevo offrire una chiave di lettura sul fatto che può forse spiegare perché le statistiche secondo le quali la maggior parte o buona parte dei reati vengono commessi da persone di nazionalità romene, e la chiave di lettura è la seguente. Conosco delle persone che hanno vissuto in Romania per tanti anni e da quello che mi dicono loro la legge in Romania è estremamente più severa che in Italia. Quindi facendo un po' un'analogia con i paradisi fiscali e quindi le imprese italiane che vanno a trovare luoghi dove le maglie della legge sono più larghe per poter fare un po', mi passi il termine, le furbette, i rumeni quando vengono in Italia trovando delle maglie più larghe si permettono di comportarsi. Probabilmente è così, lo diceva anche il rappresentante dei rumeni in Italia, non so come definirlo, che abbiamo intervistato la scorsa settimana. La ringrazio, andiamo a Napoli da Salvatore, buonasera. Buonasera, Cusani. Dica. Niente, volevo dire la mia sulla pensioni, sull'aumento dell'età pensionabile delle donne. Sì. Io non ho proprio niente in contrario che i diritti degli uomini e delle donne siano gli stessi, però come per gli uomini ci stanno i cosiddetti lavori usuranti, io riterrei la maternità per le donne un lavoro usurante. Non mi sembrerebbe giusto che una lavoratrice che abbia avuto 3 o 4 figli vada in pensione alla stessa età di una lavoratrice che non ha avuto figli. Lo so che è una scelta personale, però tenga presente che l'avere figli crea anche un abbassamento dell'età media della popolazione, quindi dei vantaggi ulteriori per la nazione ci stanno. Salvatore, naturalmente poi si può calibrare e ci possono essere deroghe le più varie, ma sul principio, sul fatto che l'età pensionabile debba essere aumentata per le donne, a parte che ce lo chiede l'Unione Europea, non ci possono essere dubbi. Io non capisco il benaltrismo che si fa su questo argomento. Prima bisogna mettere mano alla questione degli stipendi, prima bisogna mettere mano alla questione della parità in vari settori, prima quello, prima quell'altro, e poi non si fa mai nulla. Ma in generale io dico, e non capisco nemmeno le remore del governo, anzi forse le capisco per questioni elettorali, di nuovo un intervento sulle pensioni ci vuole, non c'è dubbio, lo dicono tutti i maggiori esperti, è necessario un intervento perché si prendono risorse, perché comunque ci si mette a livello degli altri paesi, non c'è nessuno scandalo in questo. Cosa sarà mai lavorare 1 o 2 anni in più, 3 anni in più? Non capisco, io francamente non capisco. È un argomento un po' duro da trattare, che rende impopolari un po' tutti quanti, però Se fosse trattato in questa maniera, aprendo appunto delle scalette in cui magari una donna che ha avuto un figlio anziché 65 diventa 64, 2 figli 62, che ne so, dico tanto per dire. Sì, no, ma poi ripeto, tutte le soluzioni sono possibili, l'importante è far passare secondo me un principio, no Salvatore? Certo. Andiamo ancora a raccogliere Brunetta da Sky TG24 e sentiamo se ci sono ancora lezioni di economia o altro. Ci vogliono 3 anni di contribuzione. Per cui se uno vive dopo la pensione altri 20-25 anni, dovrebbe avere 50 anni, 60 anni di contribuzione. Attualmente ne abbiamo a malapena dai 35 ai 40. La differenza la deve mettere lo Stato. E sa dove la va a prendere lo Stato? Non solo nelle nostre tasche, ma anche nelle tasche dei nostri giovani. Nelle tasche del welfare che non dà, per esempio, alle donne, negli asili nido che non fa, nel welfare per la famiglia che non dà, perché se tu spendi troppo per il welfare delle pensioni, tu devi portare via welfare da altre parti. Allora quello che bisognerà fare non è fare la riforma delle pensioni per le donne in generale, nel caso specifico, e in generale per tagliare, ma per redistribuire la spesa pubblica e per far sì che ci sia più equilibrio. Per esempio, i giovani i giovani, la disoccupazione dei giovani. Ma questo naturalmente è molto corretto, almeno secondo me. Naturalmente poi i pareri possono essere discordanti, possono essere diversi, però dice il governo non adesso, non si fa in questo momento di crisi, non si lascia un paese anche nell'incertezza delle pensioni. Qualche giorno fa, per passare a un argomento molto diverso, abbiamo parlato di una gaffa, presunta gaffa di Berlusconi durante l'incontro con Sarkozy a Villa Madama a Roma. Sentiamo. Il canale satellitare francese Canal Plus ha ripescato il labiale del premier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Nicolas Sarkozy durante il vertice italo-francese che si è svolto martedì scorso a Villa Madama. E il mistero su quella frase sussurrata che le président aveva liquidato con un sì imbarazzato è finalmente svelato. Oui, mais... Je t'ai donné la sua donna, on réécoute et on traduit. Nous avons décidé avec Silvio Berlusconi. Moi, je t'ai donné la tua donna, avrebbe detto il cavaliere, ovvia l'allusione all'italianità di Carla Bruni. Una battuta che forse non è piaciuta troppo a Sarkozy, né tantomeno ai presentatori francesi che gli hanno assegnato l'Oscar della volgarità. Oh, Silvio Berlusconi! Il politico più volgare dell'anno, addirittura. Cosa si è scoperto invece, anzi cosa ha scoperto, perché è stato chiamato ad analizzare questo filmato, Massimo Nava, che è il corrispondente del Corriere della Sera da Parigi, che ringrazio. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera. Che è successo? Ma niente, un banale dovere di cronaca. Mi è stato chiesto di riascoltare la registrazione e di dare il mio parere. Ma ascoltandola nei dettagli, a meno che l'udito non mi abbia improvvisamente tradito, si capisce perfettamente che Berlusconi dice: io ho studiato la Sorbona. E tra l'altro il contesto della conversazione non doveva lasciare molti dubbi, perché Sarkozy in quel momento stava parlando di accordi bilaterali nel campo della cultura e dello scambio della parità di diplomi, quindi niente, io ho semplicemente registrato questa cosa e dopodiché l'ho anche riportata sul mio giornale. Ma Canal Plus? Canal Plus credo che abbia inevitabilmente sentito un certo imbarazzo, anche perché mi risulta che questa mia intervista doveva andare in onda in una successiva trasmissione che sarebbe dovuta andare in onda, presumo, stasera, ma che poi comunque non se n'è più parlato. E mi è stato detto che avrebbero ulteriormente approfondito, quindi né smentite né scuse, ma neanche conferme a questo punto. E credo onestamente di poter dire che evidentemente l'equivoco è nato probabilmente su un gioco di accenti e di traduzioni malfatte. Sulla parola donna, no? E Sorbonne. Sì, diciamo. Sulla parola donna e Sorbonne, ma anche questo è tutto opinabile, perché in effetti Berlusconi in ogni caso avrebbe a quanto pare parlato in francese, quindi sì, in ogni caso avrebbe detto femme e non donna, quindi anche questo è molto opinabile. Ma in ogni caso credo che mi sembra abbastanza curioso che si consideri quasi uno scoop giornalistico quello che è semplicemente un dovere di cronaca. No, sì, ma non è questione di scoop giornalistico, è questione anche di chiarezza, perché questa cosa ha avuto una certa eco anche in Francia, in Italia naturalmente è stata ripresa in servizi, eccetera. Poi si è discusso molto delle gaffe di Berlusconi e poi di solito si mette in moto un meccanismo giornalistico che conosci molto bene, no? In Francia che tipo di ripercussione ha avuto, di eco, diciamo, nella stampa? Non dico nell'opinione pubblica, perché è difficile valutare. No, direi che in Francia la ripercussione è stata assolutamente minima, non ci sono state grandi, cioè non nulla di paragonabile a quelle che sono state delle vere gaffe del passato, tanto per citarne una, la famosa battuta su Obama abbronzato, ecco. Sì, sì. Nulla di tutto questo, insomma, direi che la cosa per i francesi è chiaramente finita, ma resta il fatto di una televisione che aveva dato per certo, per esempio, alcune cose. Sì, certo, ma nello stesso tempo però mi permetto anche di riflettere sul fatto che questa famosa registrazione era in realtà a disposizione di tutti, bastava riascoltarla. Sì. Grazie Massimo Nava. Vogliamo ricordare che incredibilmente, come sapete, due deputate del Partito Democratico, Anna Paola Conce e Donata Gottardi, avevano fatto un specie di ricorso, o almeno avevano annunciato di volerlo fare, alla Corte Europea di Strasburgo per l'accusa di offesa ripetuta alla dignità delle donne. Avevano accusato Berlusconi di cose di questo tipo. Adesso adesso non so cosa diranno. Lo stesso Berlusconi, pochi giorni dopo, devo dire un po' ignorato, ma succede naturalmente, succede a tutti, aveva dato la sua interpretazione, che è la stessa che abbiamo ascoltato adesso da Massimo Nava, che si è andato a riascoltare la registrazione. Se ti fanno una domanda, di che la frase era: tu sai che ho già studiato alla Sorbonne, tutto qua. Tu sai che io ho studiato alla Sorbonne, all'università, e dunque non era sono io che ti ho dato la tua donna, ricordati di questo, una cosa molto diversa. Sergio da Milano, ormai si discute di tutto, anche delle singole parole di Berlusconi, del corpo di Berlusconi, addirittura le immagini di Berlusconi sono il soggetto di un libro di Marco Belpoliti, molto bello, che è uscito in questi giorni, magari ne parleremo prossimamente. Sergio. Buonasera. Io intervenivo per la notizia di TG5 sulle interviste fatte contro i romeni. Ecco, la cosa che mi dà un po' fastidio è che molti intervistatori chiedono dei pareri a noi poveri pistola, diciamo in certo senso, intervistati, chiedendoci, facendoci delle domande talmente adescanti che qualunque tipo di risposta si possa dare: li uccidiamo, li castriamo, li perdoniamo, non facciamo niente, li capiamo, passiamo sempre per forza dei pistola, perché sembra quasi che qualunque opinione noi possiamo esprimere, tra l'altro su fatti riportati, perché poi noi esprimiamo dei giudizi o dei pareri su dei fatti riportati dagli stessi giornalisti che poi ci pongono le domande. Quindi il fatto di essere sempre coglionati dai mezzi di informazione è questo che mi dà fastidio, e non capisco perché dobbiamo essere merce o carne da macello per i giornali. Beh, mi scusi però Sergio, qui uno può scegliere se rispondere o non rispondere, prima cosa, non è che se ti mettono davanti un microfono, una telecamera, uno è costretto a rispondere, c'è un sacco di gente che dice non voglio dire nulla, primo. Anche questo programma è una tribuna dove le persone intervengono, dicono la loro, dunque noi cerchiamo i pareri e le opinioni delle persone, della gente comune, di quelli che vivono ogni giorno e cercano di guadagnarsi la pagnotta quotidianamente. No, ma lei correttamente mi permette di parlare, di esprimere una mia opinione. Beh, certo, è una cosa diversa. Cioè lei mi ascolta. Non mi fa delle domande a trabocchetto, perché io non compro più giornali, perché poi l'autorevolezza di questi due giornali, Corriere della Sera, poi non capisco cosa vuol dire essere autorevoli per loro e meno autorevoli altre testate, su che base viene data. No, ma adesso, a prescindere dall'autorevolezza, Sergio, nel caso del servizio del TG5 che abbiamo fatto ascoltare, c'è stata un'operazione molto facile da fare, che per carità capisco, ma non condivido certamente, che è quella di andare in giro a chiedere voi che cosa, voi abitanti della Caffarella, il giorno dopo l'arresto dei due romeni, cosa fareste di questi due romeni? È evidente che esce fuori qualsiasi cosa, non c'è bisogno, cioè come è un'operazione di una semplicità assoluta, viene fuori la castrazione, buttiamo la chiave, viene fuori tutta la rabbia di un quartiere, ma è quello che si vuole mostrare in televisione, si vuole mostrare la rabbia, ma non perché ci sia un disegno dietro, un disegno politico, come qualcuno dice o sospetta, semplicemente perché queste cose fanno sensazione, queste cose colpiscono, attirano pubblico, audience, soldi, pubblicità, cose normali, per carità, non sterco del diavolo, non cose di cui vergognarsi. La ringrazio molto. Sergio, voleva aggiungere qualcosina? No, volevo dire, è semplicemente una mancanza di rispetto nei confronti di noi che abbiamo la parola ogni 365 giorni all'anno, una volta all'anno. Quindi, però, ripeto, qui ognuno può dire, ognuno può decidere se rilasciare una dichiarazione oppure no. Se uno decide di lasciare una dichiarazione, poi di questa dichiarazione i telegiornali e i giornali fanno quello che vogliono. Se uno non vuole essere strumentalizzato, non dica nulla. Ma certo, sicuramente. La ringrazio. Andiamo a sentire i titoli del TG2. Vertice a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali sulla crisi. Sacconi dice: sulle donne in pensione a 65 anni non c'è alcuna decisione. La Corte internazionale dell'AIA ha autorizzato l'arresto del presidente del Sudan per i crimini di guerra e contro l'umanità in Darfur. Proteste nelle strade di Khartoum. condanna definitiva a 9 anni e mezzo per Vanna Marchi. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello. Ora per lei e per la figlia si riaprono le porte del carcere. Comunicato congiunto della Procura e della Questura di Roma per dire che secondo loro le accuse contro i due rumeni reggono, anche se non ci sono tracce del DNA. Da martedì 10 marzo debutta alla Camera il sistema di voto attraverso le impronte digitali, un modo per fermare i cosiddetti pianisti, i deputati che votano anche per i colleghi assenti. Ancora polemiche dopo Inter-Roma, la FIGC deferisce Mourinho, Balotelli e il romanista De Rossi. All'orizzonte provvedimenti per le accuse del tecnico dell'Inter contro Juve e Roma. Bene, alle 20.34 un campione del giornalismo come Franz da Milano ci dice: ho spento la radio e c'era Califano, riacceso e parlavate della gaffe di Berlusconi. Stasera grande giornalismo, complimenti. Beh, insomma, caro Franz, aspettiamo da lei grandi lezioni sui temi da trattare questa sera. Ci scriva, continui a scriverci e continui soprattutto a suggerirci delle cose interessanti. Voglio far notare a tutti quelli che dicono: beh, insomma, non si può stare a lavorare, ancora a lavorare dopo i lavori usuranti, 55 anni in fabbrica, eccetera. Naturalmente, a parte che la platea dei lavori usuranti forse in Italia è un tantinello ampia, ma a parte questo, e qualcuno vorrebbe renderla ancora più ampia inserendoci diverse cose, oggi c'è una bella intervista di Ciampi, l'ex presidente della Repubblica Ciampi, al Corriere della Sera, Carlo Azeglio Ciampi, il quale, come sapete, non è un giovincello, bontà sua, ma ha la sua età, se le porta gli anni benissimo ed è assolutamente lucido, che dice, insomma, le pensioni sono da ritoccare, sono da riformare, bisogna intervenire sull'età pensionabile. Però naturalmente non viene citato da tutti i dirigenti del Partito Democratico. C'è qualcuno addirittura che vorrebbe farne un padre del Partito Democratico, vorrebbe farlo diventare presidente. Naturalmente oggi viene ignorato perché parla di pensioni, cioè di una cosa un po' scomoda per alcuni. Massimo da Pisa, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Io volevo fare un intervento sempre in merito all'argomento dei rumeni e di come non stanno trovando i collegamenti a livello di DNA. Sono più che altro molto preoccupato per la ragazzina che è stata sempre indicata come aver collaborato molto velocemente, in maniera molto pignola e precisa, con le forze dell'ordine nel descrivere che cosa è successo e nel descrivere anche le persone. Se poi venisse fuori che effettivamente non c'è una corrispondenza, io sono preoccupato per questa ragazzina, perché potrebbe veramente essere presa di mira in qualche modo per rivendicazione. Ma io questo non credo, credo che ci sia una sufficiente protezione intorno a queste persone, francamente non credo che sia questo il problema, quello della protezione o comunque della sicurezza della ragazza oggetto dello stupro e del suo fidanzato, penso proprio di no, Massimo. È chiaro che deve essere fatta, deve essere fatta chiarezza su tutto, ci sono molti dubbi, oggi la questura dice che ha prove sufficienti per incastrare queste due persone, ci sono opinioni contrarie, i difensori dicono una cosa, fino a ieri eravamo rimasti addirittura alla possibile scarcerazione nei prossimi giorni dei due romeni, invece oggi la questura si dice sicura delle prove che ha, vedremo naturalmente. Il fatto è che anche in questo caso bisogna mantenere la barra del garantismo molto dritta. Lei che dice, Massimo? Beh, dubbiamente, certo, tra l'altro diciamo, mi sono rallegrato del fatto che hanno fatto il recupero, hanno fatto l'individuazione subito, molto velocemente, le forze dell'ordine, però ecco, io mi auguro che tale si rilevi anche fin qua, cioè un intervento veloce che sia stato risolutivo e non che invece poi vengano fuori appunto delle smentite o qualche cosa che poi magari, ripeto, metta in pericolo, fra virgolette, quella testimonianza, perché lo dico da padre di due ragazze di 13 e di 16 anni, insomma, mi dispiacerebbe molto, sarei molto preoccupato obiettivamente, perché le forze dell'ordine hanno più volte puntualizzato che c'è stata da parte di questa persona, di questa ragazzina, una pignoleria e una descrizione pronta, veloce, molto, molto buona, valida sulla descrizione, conto dei fatti, eccetera. L'hanno detto talmente tanto che poi ecco, la preoccupazione sta in quel senso, che poi appunto non ci sono vuoti negativi. Grazie, andiamo a Livorno. Franco. Salve. Franco, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire su due argomenti. Uno sui pianisti. Perché cosa volevo dire? Volevo dire che praticamente se un dipendente pubblico o un dipendente privato si azzarda a telefonare dal luogo di lavoro, oppure come è successo uscire 5 minuti prima dell'orario previsto, come è successo a quei ferroviari tempo fa, giusta causa e viene licenziato. Ora poi sono stati reintegrati. Ma sì, però è rimasto... avuto un attimo di brivido. Certo. Ecco. Invece i penisti amministrano, e questa è cosa molto più grossa, no? Amministrano un paese intero, milioni e milioni di persone che dovrebbero essere lì dipendenti da loro in base giustamente a una legge democratica, poi invece uno vota per quattro. Mi è trovato un escamotage dopo anni e anni e anni di questo andazzo. E per il discorso che è stato fatto oggi di quello dell'impronta digitale, c'è anche chi ha il diritto di rifiutarsi. Poi si parla di casta, ma c'è la casta? No, ma che ci sia non c'è dubbio, non è quello il punto, Franco. Lei giustamente ha fatto un paragone: quando uno timbra il cartellino, si fa timbrare il cartellino dagli altri, corre il rischio del licenziamento. Io credo che nei confronti dei pianisti per anni si è sorvolato, invece devono essere prese decisioni molto più drastiche. Il fatto è che conveniva a tutti, perché qualche volta c'era il centro-sinistra, altre volte il centro-destra, e dunque un po' si faceva a muina. Invece adesso c'è un sistema che dovrebbe garantire il fatto che non si vota più per un'altra persona, a parte che non si capisce perché quello che vale per la Camera non può valere per il Senato. È vero che le due amministrazioni sono diverse, ma resta comunque il problema eventuale di pianisti al Senato, dopo questo sistema non è entrato in vigore, non entrerà in vigore la settimana prossima. E poi ripeto, una volta che è stato deciso, e secondo me si poteva utilizzare anche un altro sistema, un altro metodo, basta, si prendono le impronte digitali, rimangono solo 16 deputati. Flavia, provincia di Terni, andiamo un po' più veloci perché dobbiamo chiudere. Flavia, dica. Buonasera, io rispondevo alla sua affermazione che quale problema c'è a lavorare fino a 65 anni. In linea di principio non c'è nessun problema, le assicuro. Io ho 50 anni e penso che fino a 65 spero di lavorare attivamente. Detto ciò, però, quale giustizia c'è verso le persone che adesso, come me, hanno quest'età e magari si troveranno a 60 anni, magari con qualche problema? Quale giustizia c'è nel vedersi i colleghi che fanno esattamente lo stesso lavoro, che andranno in pensione e con adesso, magari solo perché hanno 10 anni di età più di noi, con delle pensioni molto prima, peseranno su di noi che rimaniamo qui a tirare la carretta, e loro sono andati in pensione 5 anni prima di noi, mentre noi potremmo andare solo a 65 anni. Loro hanno avuto contratti e garantiti firmati dai sindacati, noi siamo tutti qui a tirare la carretta con contratti atipici, con stracci di pensione che non ci permetteranno nemmeno di mangiare. E qual è la giustizia sociale? No, però mi perdoni Flavia, lei dice non c'è giustizia perché quando io andrò in pensione magari sarà passata una riforma che mi costringerà, tra virgolette, o comunque mi obbligherà, perché poi sarà così, ad andare in pensione quando io avrò 65 anni, mentre tutti quelli che vanno prima di me sono favoriti. E poi soprattutto io magari avrò avuto sempre dei contratti atipici con tutte le difficoltà del caso, ma certamente questo è un problema. Però non tutti i contratti sono uguali, non tutte. Purtroppo bisognerebbe rivoluzionare insieme alle pensioni anche alla questione dei contratti, cercare di cambiare anche ancora qualcosa nel mondo del lavoro, soprattutto sulla flessibilità in uscita, no Flavia? Ma è un discorso molto, molto lungo naturalmente. Io credo... C'è secondo me una profonda ingiustizia in Italia, un'ingiustizia dovuta a chi è dentro e dentro e a chi è fuori e fuori. Lei ha perfettamente ragione, sottoscrivo al 100% quello che lei sta dicendo, tra quelli garantiti e quelli che non sono garantiti. Federico da Ferrara, Gino da Genova, li devo rimandare con tristezza perché mi dispiace sempre, a domani se vogliono 18:30 La Zanzara. La Zanzara.